risplendi e tutto il bosco accendi, vento tu sussurri ed amore mi circondi. Forse ti conosco, il giullare sei il bosco, guarda fra le mani un fiore fresco e profumato. Nero sono sincero, spandi luce, sei una stella, bianca è la tua danza, se saltelli sei più bella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fata margherita, tu sei la mia preferita, dolce creatura, sto cercando le tue dita. Prendimi la mano e il suono senti il ritmo, canta come forte il rumore dei miei passi. Nero sono sincero, splendi luce, sei una stella, bianca è la tua danza, se saltelli sei più bella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fata margherita, con passione e allegria, magica volteggi con leggera poesia. Luce, gioia, amore, grazia spandi intorno a te, tutto il mondo danza, balla oggi insieme a me. Nero sono sincero, spandi luce, sei una stella, bianca è la tua danza, se saltelli sei più bella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bianco non mi stanco di danzare insieme a te, nero sono straniero quando sono lontano da te. Nero sto in silenzio, notte cala la tua pace, bianca è la tua luce, tutto brilla intorno a te. Nero sono sincero, spandi luce, sei una stella, bianca è la tua danza, se saltelli sei